una svolta. Abbiamo perso troppo per continuare. La strada è troppo lunga per poterla affrontare. Non ci voglio credere che tutto voli via. Sembra un sogno, dentro una pazzia. Vorrei solo svegliarmi e sperare sia finito. Come un secondo, lento e scandito. Immerso dentro un'ora che può sembrare eterna. Come nella notte con la luce spenta. Non c'è la luna, non ci sono stelle. Solo il buio splende sulla pelle. Tempo per noi sfuggito di mano. Tempo per noi andato lontano. Non è possibile scappare da noi stessi. Se ci specchiamo nei nostri riflessi, spezza quello specchio, vivi nel presente. Nessun istante è per sempre. Passa senza rendersene conto. Io ormai sono pronto. Tempo per noi sfuggito di mano. Tempo per noi andato lontano. Non è possibile scappare da noi stessi. Se ci specchiamo nei nostri riflessi, spezza quello specchio, vivi nel presente. Nessun istante è per sempre. Passa senza rendersene conto. Io ormai sono pronto. Andiamo ancora avanti, passando in mezzo agli anni. Come sagome sbiadite, come frasi mai sentite, sussurrate sottovoce, senza far rumore. Ascoltate con calma, spegnendo ogni timore. La paura di una volta è un ricordo lontano, come la voglia di tenerti per mano. Sono solo frammenti impressi nella mente. Sono stati momenti e non durano per sempre. Passano in fretta, unici e veloci. Ti assalgono ogni giorno come lupi feroci. Riuscirò un giorno a guardare avanti, pensando a quanto siamo distanti. Tempo per noi sfuggito di mano. Tempo per noi andato lontano. Non è possibile scappare da noi stessi. Se ci specchiamo nei nostri riflessi, spezza quello specchio, vivi nel presente. Nessun istante è per sempre. Passa senza rendersene conto. Io ormai sono pronto. Tempo per noi sfuggito di mano. Tempo per noi andato lontano. Non è possibile scappare da noi stessi. Se ci specchiamo nei nostri riflessi, spezza quello specchio, vivi nel presente. Nessun istante è per sempre. Passa senza rendersene conto. Io ormai sono pronto. Di mano, tempo per noi andato lontano, non è possibile scappare da noi stessi. Se ci specchiamo nei nostri riflessi, spezza quello specchio, vivi nel presente. Nessun istante è per sempre. Passa senza rendersene conto. Io ormai sono pronto.